Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. E allora, di cosa parliamo questa mattina? Parliamo della protezione del nostro tenore di vita. Gli italiani sono considerati tradizionalmente sottoassicurati, sono intanto un po' sfiduciati in questo momento per come sta andando, come sapete bene, la situazione economica, ma sono anche tradizionalmente assorbiti dall'RC auto, che ha visto tariffa crescente negli ultimi anni e quindi non pensano ad assicurare altri aspetti della loro vita. Secondo alcuni studi, solo una percentuale minima delle famiglie nel nostro paese si considera finanziariamente sicura. Un dato in netta diminuzione, peraltro, come è comprensibile attendersi dall'inizio della crisi. Nel frattempo, però, si è assistito ad un altro fenomeno in Italia da parte dell'industria assicurativa, perché sono proliferati sul mercato i prodotti assicurativi che hanno l'obiettivo di proteggere, come dicevamo in apertura, il cosiddetto tenore di vita. Le famiglie italiane negli ultimi tempi hanno perso ottimismo in merito al miglioramento della propria situazione economica, sono sempre più preoccupate che il rischio che eventi esterni possano mettere in seria difficoltà il bilancio familiare, dalla morte, la malattia di un familiare fino alla perdita del posto di lavoro, circostanza che ha riguardato purtroppo negli ultimi mesi molti nuclei familiari. Per molte di queste situazioni sono previsti appositi prodotti assicurativi, come vi dicevo, che consentono di mettere al sicuro aspetti specifici legati alla propria vita, aspetti specifici legati a appunto della vita. Oltre alla difficoltà economica, in molti casi manca la capacità di previsione e di stima dei rischi. Allora Salva Danaio oggi ha preso qualche esempio e vi voglio spiegare il funzionamento di questi prodotti pensati per assicurare appunto il tenore di vita. Convincono gli italiani, tra l'altro, visto che la vulnerabilità finanziaria delle famiglie è sempre più alta, questo ha portato anche le famiglie italiane a riorganizzare anche il proprio budget familiare, destinando una parte di questo anche a prodotti assicurativi specifici. Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. Con noi questa mattina diversi ospiti, tutti protagonisti di questo settore: Valeria Picconi, responsabile per l'Italia di Genworth, che è un gruppo assicurativo americano in Italia da qualche anno, soprattutto da quando, io lo ricordo, proliferavano le sottoscrizioni di mutui nel nostro paese. Adesso le banche sono un po' più restie a derogare, però in quel periodo voi avevate distribuito molti prodotti di protezione in questo campo. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, intanto. Grazie. Buongiorno a Diego Rossini, invece dirigente per il marketing e la distribuzione di Chiara Assicurazioni. Buongiorno. Buongiorno. Che ho conosciuto qualche tempo fa ad un convegno, mi ha molto incuriosito una polizza nuova che è nata insieme a questo gruppo. So che tra l'altro lui dice, ma perché mi devi sempre chiamare a parlare di qui sempre? Perché proprio su questa devi parlare, ma in realtà è una polizza destinata agli amministratori delle aziende contro, tra virgolette, la mala gestione, nel senso che comunque se una società va male, magari un dirigente vuole tutelarsi anche da questo, qualora le cause non fossero riconducibili solo ed esclusivamente a lui. Buongiorno intanto, grazie. E poi saluto e ringrazio, collegato telefonicamente con noi, Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Da poco il gruppo bancario distribuisce Proteggi con me, appunto, che è una polizza per chi desidera tutelarsi da determinati eventi che possono proprio compromettere la capacità delle famiglie di far fronte alle spese mensili, quindi non parlo solamente per esempio del mutuo, ma anche le bollette e tanti altri impegni finanziari. Allora, come considerate tutto questo? Quindi chiedo ai nostri ascoltatori, come sempre, di interagire con noi sul tema del giorno. Raccontatecelo al numero verde, al numero per gli SMS. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666, come vi ho detto, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter, insomma tutti i canali sono come sempre ben presidiati. Adesso la borsa. La borsa questa mattina ha una condizione di attesa, perché l'appuntamento centrale della giornata è nel primo pomeriggio quello con il dato sulla disoccupazione americana di aprile. E nel frattempo, dopo la decisione di ieri della Banca Centrale Europea di ridurre i tassi di interesse nell'Eurozona al minimo storico, a mezzo punto percentuale, questa notizia è stata già largamente digerita dal mercato e oggi abbiamo una situazione appunto di prestazioni molto prudenti degli indici del vecchio continente, più 0,11%. 0,11% a Parigi, più 0,22% a Francoforte, Londra più 0,18%, Milano più 0,02%. Peraltro sull'attesa dei dati di oggi, ieri Wall Street ha registrato nuovi massimi storici, ormai per il mercato americano questa tendenza è consolidata da settimane e vedremo se si manterrà anche oggi con il dato appunto sull'occupazione. A Piazza Affari i migliori titoli in questa mattinata: Finmeccanica che guadagna 2 punti, Lottomatica più 1,83, Pirelli più 1,46, Ansaldo più 1,42, mentre in discesa segnaliamo Atlantia e Mediolanum che perdono nella stessa misura, meno 1,26%, Prismian meno 1,17%, STM meno 0,97%. Lasciamo subito la borsa, andiamo immediatamente al tema di oggi. Oggi parliamo di famiglie italiane, assicurazione e protezione del tenore di vita. L'espressione tenore di vita viene spesso abbinata alle abitudini, ai consumi, ai piccoli vizi che una famiglia può concedersi e a cui si trova costretta a rinunciare nel caso in cui le sue condizioni economiche si trovino a peggiorare. Purtroppo però, soprattutto oggi, il tenore di vita di tanti italiani si riduce alla possibilità di continuare ad onorare gli impegni presi. Il mutuo, con le rate mensili addebitate sul conto corrente, le spese di gestione della casa e per la scuola dei figli. Sono tanti gli eventi che possono mettere in difficoltà il bilancio di un nucleo familiare, quale che sia il tenore di vita a cui è abituato. Dal rischio di restare senza lavoro a quello di una malattia, o peggio, della morte di uno dei propri cari, quello di subire un furto o essere vittime di una calamità, fino ad arrivare ai rischi finanziari legati agli investimenti. Si tratta di situazioni spesso imprevedibili e indipendenti dall'impegno, dalla costanza e dall'onestà delle persone. Per tutelarsi di fronte a queste eventualità, ci sono prodotti assicurativi mirati proprio a fornire una copertura alle voci che vanno a comporre il bilancio del cliente. È così che diventa possibile assicurare il proprio mutuo, il pagamento delle rate universitarie dei propri figli o di altre spese di istruzione, le utenze di casa, la pay TV, ma anche le sanzioni per i propri errori sul lavoro, nel caso si ricoprano ruoli di responsabilità civile. Investire in un'assicurazione per proteggere la propria realtà è sicuramente una possibilità interessante, un'opportunità da prendere in considerazione per difendere le proprie finanze. In molti casi, però, alla luce delle difficoltà nell'ottenere credito e finanziamenti, rischiano di non esserci affatto, per le nostre famiglie, spese, impegni e tenore di vita da assicurare. 800240024 è il numero verde che vi dà l'opportunità di chiacchierare con noi sul tema di questa mattina. Vi leggo subito il primo messaggio che è arrivato e che ancora una volta, ma insomma è un po' la sensazione che si ha sempre, la considerazione abbastanza diffusa fra i nostri ascoltatori: molti non si assicurano, ci scrive un amico appunto al nostro SMS, perché quando capita poi qualche cosa tentano sempre di non rimborsarti o di darti il meno possibile. Beh, comunque una sorta di condizione di scetticismo che gli operatori del settore conoscono molto bene. Detto questo, Valeria Picconi, per la verità mi sembra che abbiate dovuto erogare molte prestazioni recentemente proprio in relazione al crescente tasso di disoccupazione in Italia. Ah, assolutamente sì, negli ultimi 5 anni l'aumento dei sinistri, quindi di persone che sono in difficoltà rispetto in particolare ai propri finanziamenti, che hanno chiesto il nostro intervento, sono state tantissime e stanno crescendo continuamente anche nel 2013. Comincio con Genworth perché questo gruppo ci può dare anche la misura del sentore di vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane, perché voi elaborate periodicamente un indice che appunto fotografa la situazione. Qual è in questo momento la condizione italiana? Allora, la situazione italiana è sicuramente, questo indice fa benchmark di vari paesi europei e anche non europei. L'Italia quest'anno è nel punto più basso della classifica, è al terzultimo posto prima di Grecia e Portogallo. Quindi gli italiani sono quelli che si percepiscono tra i più vulnerabili finanziariamente in assoluto in Europa. Mm-hmm. So che sono cambiate un po' di cose anche per quello che riguarda, adesso giusto per dare anche qualche curiosità internazionale, la Cina sì, dà dei segnali interessanti. Interessa naturalmente, però tanto per così vedere un po' come va nel resto del mondo. Dal 2007 noi facciamo questo indice, e da quest'anno abbiamo anche incluso la Cina. Per darti un'idea, l'Italia, l'indice è da 1 a 100, l'Italia è a 11, la Cina è a 78. Certo. Quindi sono assolutamente molto più ottimisti di noi relativamente al... La famiglia italiana si sente molto vulnerabile, anche perché chiaramente a guardarsi intorno non è che ci siano molti spunti di ottimismo, con, dicevo prima, il tasso di disoccupazione che è crescente. C'è però una sensibilità verso il tema assicurativo per proteggersi da un improvviso cambiamento della propria condizione, quindi c'è sensibilità ma non c'è risorsa economica. Ecco, dal punto di vista pratico poi che cosa succede dopo aver elaborato l'indice, Picconi? Ma noi l'indice serve appunto per tastare il polso della situazione, e sicuramente c'è una necessità evidente con l'andare degli anni, e quindi sicuramente i prodotti assicurativi devono e servono appunto per questo. Tradizionalmente erano prodotti che erano strettamente legati solo ai finanziamenti, oggi ci sono prodotti assicurativi anche per, come dicevamo prima, le domiciliazioni bancarie, quindi per pagamento delle bollette, pagamento della scuola, quindi per tutte le necessità finanziarie della famiglia. Certo, perché come dicevamo, pur con il vistoso scetticismo generale, è chiaro che stiamo vivendo anche una trasformazione che sta portando sempre di più il settore privato a sostituirsi, Igor Rossini, al welfare pubblico, Chiara Assicurazioni. Voi tra l'altro in questo periodo vi siete cimentati soprattutto su questo prodotto legato alla eventuale, come dire, difficoltà di gestione aziendale, poi ne parleremo. Per quello che riguarda le famiglie invece, che tipo di sentore avete in questo momento? Voi vendete soprattutto attraverso il canale bancario, come dire, la famiglia si assicura perché c'è l'obbligo di applicare la polizza al mutuo, o c'è anche una sensibilità diversa, una consapevolezza più forte? Beh, è difficile parlare di consapevolezza, ci spingiamo verso una sensibilità maggiore. Questo è un fenomeno trainato ovviamente dall'economia, che trascina un po' un reddito meno disponibile per quanto riguarda l'esigenza di protezione, però rimane ancora un fatto fondamentale: nessuno si alza e dice oggi vado a comprare una polizza. Questo perché non conosco i prodotti assicurativi, non ho un'adeguata cultura su quello che possono offrirmi i prodotti assicurativi, e spesso ho una visione proprio contrapposta, non nitida, di che cosa mi copre una polizza. Tanti non sanno che una banalissima polizza RC del capofamiglia, per i danni che fanno i bimbi ad una vetrata, al parabrezza del vicino, a un collega, a un amico che gioca tutti i giorni, posso fargli male, posso rompergli un braccio, posso fargli un danno, ha un costo che può arrivare a 8-10 euro al mese, assolutamente rilevante rispetto a quello che è la portata della copertura rispetto ai rischi che può appunto coprire. Ma è un problema culturale, secondo lei è proprio un problema di sfiducia totale verso la compagnia, verso l'industria italiana, che come giustamente sollevano anche molti ascoltatori, poi quando c'è bisogno non si sa come mai l'assicuratore scompare sempre? Beh, ci sono delle situazioni un po' degenere che hanno un po' inflazionato negativamente il concetto poi della polizza. Di fatto c'è una sottoassicurazione legata ad un'assenza di una cultura, e poi bisogna dare i giusti messaggi ed essere chiari con le coperture assicurative. Valeria Picconi voleva intervenire, poi vado anche ad Alessandro Scarfossi. Per dare un numero, noi negli ultimi 5 anni abbiamo pagato 70 milioni di premi di sinistri, quindi a persone che avevano finanziamenti o mutui in difficoltà, per esempio per la perdita di impiego. Quindi paghiamo, certo, e anche insomma tanto, 70 milioni in 5 anni, vuol dire che un numero elevatissimo di famiglie ha potuto continuare a onorare i propri finanziamenti grazie all'intervento delle compagnie, e noi siamo una compagnia relativamente piccola, quindi ovviamente il settore sta dando un forte supporto alle famiglie italiane in difficoltà. Allora, Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura, subito la prima domanda con la quale la voglio mettere in difficoltà: ma perché le banche non fanno le banche e invece vogliono fare le assicurazioni? Ma me lo spiega questo? Credo che il motivo sia, come dire, è molto radicato nella relazione che il gestore della banca ha con il suo cliente. Nella realtà non esiste un lavoro della banca e un lavoro dell'assicurazione. A mio parere esiste un supporto che viene dato alle famiglie nella gestione del loro welfare familiare. E questo è fatto di tante cose, è fatto di conti correnti, è fatto di strumenti di pagamento, è fatto di prestiti, di mutui, ma è fatto anche di coperture in quelle situazioni nelle quali succede, come si dice in assicurazione, uno shock demografico. Quindi c'è un evento che sostanzialmente fa cambiare quello che è, per esempio, il piano di accumulo, il piano di risparmio, la gestione del denaro della famiglia. E quindi in questa gestione del welfare familiare le polizze assicurative, e non parlo rigorosamente solo della polizza auto, ma tutte quante le polizze assicurative per la famiglia hanno un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del welfare familiare. Ma perché voi avete voluto, inventare accaparvi, mi passi il termine, tra virgolette, dei prodotti in casa vostra, piuttosto che magari affidarvi per l'offerta assicurativa ad altri attori sul mercato specializzati in questo campo? Appunto, per quale ragione avete voluto mettere in piedi una politica commerciale di questo genere? Beh, per quello che riguarda l'auto, devo dire che abbiamo inventato un prodotto che è molto diverso dagli altri in circolazione, perché è un prodotto molto più orientato al servizio e alla vicinanza al cliente rispetto a un puro pagamento di del controvalore di un incidente che magari ci può essere. La logica è proprio quella di cercare, in tempi di incertezza molto forti come quelli che stiamo attraversando, di dare un pochino più di certezza e di vicinanza ai nostri clienti. Crediamo che questo sia l'elemento differenziale, anche per riuscire nel vituperato mercato della RC Auto, dove devo dire, la nostra immagine come settore assicurativo vive di una situazione un po' compromessa proprio a causa di questo prodotto dell'RC Auto. Anche in questo cercare di dare un approccio in termini di vicinanza, di tutela, di assistenza al cliente che faccia un po' cambiare magari i luoghi comuni dell'assicuratore, faccia vedere più come qualcuno che mi è vicino quando ho bisogno, non come qualcuno con cui discuto perché non mi vuole dare i soldi. Quando ho bisogno invece praticamente da tutt'altra parte del pianeta. Tra l'altro, a proposito dell'RC Auto, abbiamo un dato che è stato diffuso questa mattina, magari coglieremo l'occasione per approfondirlo in un'altra puntata di Salvadanaio. Sapete che l'RC Auto è un tema al quale siamo molto affezionati, che affrontiamo molto spesso. Questa mattina dirigente dell'ANIA, Dario Focarelli, appunto intervistato da Rai 1, ha fatto sapere, ha reso noti i risultati di questa indagine dell'ANIA, l'Associazione delle Compagnie di Assicurazione Italiane, un'indagine che si è svolta presso le compagnie appunto del nostro paese per verificare l'andamento del prezzo medio effettivamente pagato dagli italiani per l'assicurazione RC Auto, un'indagine che ha riguardato il periodo settembre 2012-marzo 2013. Sembra che in questi sei mesi il prezzo medio dell'assicurazione sia diminuito del 4,5%, e quindi adesso ce lo dovranno raccontare gli ascoltatori se effettivamente cominciano a notare un'inversione di tendenza nelle tariffe, che invece sono state costantemente crescenti negli ultimi anni, al punto che Rossini effettivamente, per assicurare l'auto, le famiglie hanno ben pensato di non assicurare la famiglia. Sì, c'è un po' una focalizzazione sul prodotto auto che assorbe un po', fagocita quella che è la spesa assicurativa che le famiglie hanno, e questo di riflesso condiziona poi la stabilità di quello che è il welfare domestico di cui parlavamo prima. E c'è un disorientamento perché non si ha la conoscenza di coperture che, rispetto a eventi quali abbiamo parlato prima, la malattia, un infortunio, il discorso di poter continuare nel tenore di vita, gli studi dell'università, gli studi per i figli, tutte quelle attività che tipicamente accompagnano la famiglia, possono essere compromesse e non sono mai accompagnate tipicamente da una copertura assicurativa. Diego ci scrive: buongiorno Deborah, cerco da 3 anni una polizza contro i danni da terremoto per la casa, mi dicono che non esiste. Beh, allora non so se ce l'abbiano i signori che sono qua ospiti della mia trasmissione, ma credo che sul mercato esista, e come soprattutto in un paese con un'alta vocazione sismica come l'Italia. Scarfò, vuole commentare questa considerazione dell'ascoltatore? Nella fattispecie è una tipologia di copertura che non offriamo, però sì, effettivamente è vero che c'è presso altre società prodotto la offrono. Credo che quello, sia una componente che va offerta nel momento in cui c'è effettivamente una presenza territoriale molto forte, quindi è un qualche cosa che i grandi assicuratori normalmente possono offrire, e normalmente che i rischi che si coprono sono tutti gli altri rischi, che peraltro sono quelli a più alta frequenza e che incidono più frequentemente ovviamente sul bilancio della famiglia normale. Allora, devo fare la prima pausa, abbiamo già pronto ad intervenire Paolo da Treviso, però prima di concludere questa prima parte di Salvadanaio, una battuta con Valeria Picconi di Genworth. Fabrizio da Pesaro ci chiede: 70 milioni in 5 anni pagati, come ci diceva lei prima, a fronte di quanti premi incassati? Per parità, che è curioso l'ascoltatore. Ma capire un po' la proporzione, no, anche, certo. Allora, poi magari la facciamo individuale. In questo momento il risultato tecnico è negativo per le compagnie che fanno soprattutto la perdita quindi di impiego. Quindi state erogando più che incassando. Per la perdita di impiego sicuramente sì. Ecco. Per gli altri prodotti ovviamente la vita non cambia con la crisi economica, però sulla perdita di impiego il risultato tecnico è sicuramente negativo. Però insomma sono rischi di impresa che l'assicurazione conosce molto bene. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi parliamo di italiani ed assicurazione, non dell'auto, anche se questa mattina un po' di Striscio il tema l'abbiamo toccato. Parliamo di tutti quegli altri ambiti in cui la famiglia italiana non ha modo, non ha la vocazione, non si assicura. Oggi è molto attuale il dibattito intorno alla protezione del tenore di vita, perché come sapete anche con la disoccupazione crescente nel nostro paese molte persone hanno perso il proprio impiego, si sono trovate improvvisamente non solo a non poter pagare il mutuo, ma anche naturalmente a non poter pagare tante altre cose, le bollette, tanti altri impegni finanziari che non potevano essere rispettati, ma anche a fare tante altre rinunce. Allora, siccome è molto delicato questo argomento, stiamo cercando di capire come oggi l'industria assicurativa si sta riattrezzando per così far fronte anche a queste esigenze diverse delle famiglie. Però le famiglie italiane conoscono questi prodotti, si assicurano. Certo che adesso, come dire, andare sul mercato con tanti prodotti di questo tipo, Igor Rossini di Chiara Assicurazione, è anche una sfida per l'industria, perché ci andate in maniera molto intensa proprio nel momento in cui le famiglie italiane stringono la cinghia. Beh, il timing non è ottimale, però meglio esserci che non esserci, dice lei, no? Beh, proprio nei momenti più particolari la percezione del rischio deve essere un po' amplificata, e di qui la necessità ancora di più di strutturarsi con un bel profilo assicurativo a supporto, no? Quindi ancora... Beh, è un momento difficile, però dal tenore della famiglia al tenore anche dell'impresa, che condiziona poi indirettamente e direttamente anche il tenore della famiglia. Ma voi notate, per esempio, siccome raccontiamo noi costantemente anche del fatto che le famiglie italiane per fronteggiare gli impegni economici sono sempre ancora molto risparmiatrici, molto formichine le famiglie italiane, stanno intaccando quote del loro risparmio, lo fanno anche magari proprio per tutelarsi e per coprirsi dal punto di vista assicurativo, o lo fanno solo ed esclusivamente, quindi spostano il risparmio da magari un prodotto di investimento ad un prodotto assicurativo, curativo, o toccano il risparmio per far fronte ad altre esigenze? Qual è la sua sensazione? Beh, la percezione è la seconda, purtroppo, no? Che c'è un rimescolamento di quelle che un po' l'asset di investimenti che la famiglia ha verso una forma di gestione interna un po' scissa dalla componente assicurativa, dalla componente previdenziale e da quelle che sono altre forme di investimento. C'è una differenza naturale in tutto quello che è successo per la componente finanziaria, che alla naturale disaffezione al mondo assicurativo comporta un ancora più allontanamento da quella che è il desiderio e la protezione verso i rischi. Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura, le lancio un'idea che per la verità ci suggerisce un ascoltatore al 349-238-6666. Farei volentieri, ci scrive questo amico, una polizza che assicura i depositi nel caso in Italia si finisse come Cipro. Speriamo di no, non è che voi ci avete pensato, no? Non abbiamo pensato, anche perché, diciamo così, è uno scenario a bassa frequenza, ecco qua, basso. Che non speriamo neanche... veramente, speriamo che non sia uno scenario realistico. Invece, senta, a proposito della polizza che ci ha dato anche un po' lo spunto per affrontare questo tema salvadanaio, che è la vostra ultima nata appunto in casa Intesa San Paolo, questa si chiama Proteggi con me. Adesso magari qualcuno avrà anche la sensazione che sto facendo una pubblicità, io mi interrogo solo su come funzionano questi prodotti, anzi se funzionano una volta che vengono sottoscritti. C'è un'ascoltatrice, Scarfò, che ci scrive: Tina, per un pensionato senza famiglia è prevista una qualche polizza adesso? Siccome voi so che questo strumento lo dedicate, lo rivolgete a tutti i clienti che hanno un'età compresa fra i 18 e i 69 anni, se Tina avesse un'età inferiore lo potrebbe sottoscrivere pur non avendo nucleo familiare? Beh, diciamo che questa polizza assicura, diciamo, le coperture delle spese della famiglia a fronte di alcuni eventi. Diciamo, sicuramente il più, come dire, il più gettonato in questo momento, quello su cui c'è più attenzione, è quello della perdita del posto di lavoro. Quindi Tina dovrebbe perdere la pensione, il che per, spero, esatto, che sia un altro scenario come Cipro, ci manca pure. Però diciamo che questo copre anche, per esempio, una sopraggiunta invalidità permanente piuttosto che il ricovero ospedaliero, quindi il fatto che la persona debba essere ricoverata per un periodo diciamo in ospedale. È chiaro che, come dire, questo è un prodotto molto tagliato ovviamente su una famiglia con, come dire, le sue spese, e che ovviamente nel caso in cui appunto ci siano più persone, figli eccetera, diventano maggiormente incomprimibili, e quindi sulle quali è più opportuno, diciamo, visti i tempi e la volatilità attuale, mettere una barriera di protezione per assicurarsi che, come dire, anche a fronte di eventi particolari si possa continuare a fare fronte alle spese incomprimibili. Come quantificate un premio, Scarfò? Esistono delle tabelle standard, oppure in ogni caso una polizza viene un po' costruita anche su ad immagine e somiglianza del reddito che la famiglia che si vuole assicurare appunto percepisce, la composizione del nucleo familiare, no? Oppure, ecco, c'è una standardizzazione, c'è una personalizzazione? Beh, più che su sul reddito nella realtà viene proprio costruita sulle spese della famiglia. Diciamo che ci sono tre tipologie di spese che possono essere coperte. La prima, quella da cui si è partiti, è la più ovvia in una banca, e sono le rate del mutuo. Quindi io sottoscrivo un mutuo e voglio coprirmi, diciamo, rispetto agli eventi straordinari che possono succedere a me o a qualcuno della mia famiglia, posso, devo coprirmi dal fatto che, come dire, posso non fare fronte a questo. C'è però un secondo modulo che sono più in generale le spese che sostiene la famiglia, può essere dalla scuola dei figli al costo delle bollette, al costo delle utenze e via dicendo. In generale qui noi consideriamo tutte quelle spese che vengono, diciamo così, addebitate sul conto corrente, quindi tutto ciò che in qualche modo è facilmente, quindi anche per limitare come dire, il fatto che il cliente debba poi dimostrare piuttosto che portare pezzi di carta, è per definizione riconosciuto perché è un addebito che avviene sul conto corrente in forma di addebito delle utenze, RID, MAV, piuttosto che anche gli affitti che vengono pagati col bonifico a fronte di un contratto predefinito. C'è poi un terzo modulo che invece sono tutte le componenti diciamo di piani di accumulo, quindi diciamo, i versamenti che il cliente fa periodicamente a fronte di un piano di accumulo, può essere anche un piano di accumulo previdenziale, altro tema voglio dire piuttosto caldo. Quindi come dire, qualora non si fosse nella condizione di rispettare questo impegno, interviene l'assicurazione che copre anche la rata della previdenza integrativa? Esattamente, questa è esattamente la finalità. Il cliente può scegliere come modulare in funzione delle spese che lui sostiene, può avere solo la rata del mutuo, fa la rata del mutuo, insomma può modulare un po' come lui desidera, e anche in termini di valore lui può decidere di fatto di assicurare l'ammontare che lui reputa in qualche maniera incomprimibile nell'unità di tempo. Quindi è una scelta, diciamo, che viene fatta veramente dal gestore e dal cliente insieme, con il gestore che lo aiuta a modulare il livello di copertura e di costo più idoneo rispetto ai suoi fabbisogni. Insomma, questo è il mondo delle assicurazioni, come sta cambiando in relazione anche al cambiamento delle condizioni finanziarie delle famiglie, le nuove emergenze. Peraltro anche il tema della salute è molto importante. Poi magari con Valeria Picconi mi piacerebbe raccontare anche cosa state facendo per le problematiche legate a patologie molto importanti nella vita. So che avete un piano che avete predisposto da poco proprio per come dire, proteggere la famiglia qualora un componente sia colpito da cancro. Purtroppo in Italia questo problema è attualissimo ed elevatissimo, poi magari ne parleremo. Adesso qualche ascoltatore, perché sono già in attesa da un po'. Cominciamo con Paolo da Treviso. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi richiamato. Prima di tutto, buongiorno a tutti. Grazie. Ci sarebbero mille cose da dire. Guardi, dovremmo andare avanti fino alle 6 di stasera. Infatti. Sì, appunto, bisognerebbe aver molto tempo. Tre cose in rapida velocità, se riesco a dirle. Primo, punto uno, di perché le assicurazioni non permettono di pagare tramite RID le quote per l'automobile, eccetera, in modo che non ci sia la scadenza grossa ai sei mesi o all'anno, ma sia tutto quanto diluito lungo una rateizzazione più fissa. Sì, uno. Seconda domanda, perché gli assicuratori sono sempre dei Giona anziché essere degli amici del cliente? Ti prospettano sempre delle situazioni disastrose per cercare di metterti paura, per intimorirti, per costringerti a pensare che ti può capitare il peggio e quindi sei subissato di minacce psicologiche. Sì, no, sì. Beh, loro fanno il loro lavoro, Paolo. C'è da dire però, che magari qualche famiglia... Non portare sfiga, scusa il termine. Va bene, anche noi abbiamo sdoganato le parolacce da un po', speriamo. Detto, terzo aspetto, Paolo, andiamo alle questioni Un'ultima domanda. Come mai all'estero, io ho avuto occasione di abitare sia in Canada che in Francia, si assicura l'autista e non l'autovettura? In questo modo si incrementerebbe il mercato dell'auto, perché uno potrebbe avere anche l'auto giocattolo e non dovrebbe pagarci sopra l'assicurazione. Insomma, Paolo, lei veramente ha le idee abbastanza originali sul tema. Rossini, mi vuole aiutare lei magari a rispondere a qualche aspetto del nostro ascoltatore? Intanto perché, per esempio, per l'auto, non so poi voi se siete particolarmente esperti di questo campo, non si può fare una rateizzazione mensile del premio? Beh, noi siamo partiti lo scorso anno con un esperimento sull'auto con un nostro partner bancario, e abbiamo previsto la mensilizzazione del premio, ecco, quindi c'è la possibilità di 1-0 rateizzare per le assicurazioni contro Paolo, ecco. E lo facciamo anche su tutti i prodotti che vendiamo alla famiglia, quindi rateizzazione mensile vuol dire 15, 20, 8, 5 euro al mese che non spaventano e accompagnano bene la ricerca della tranquillità. E poi perché, dice Paolo, siete sempre così uccelli del malaugurio contro i potenziali clienti? Perché comunque l'assicuratore fa questo mestiere, deve mettere in guardia dalle situazioni peggiori possibili. Bisogna un po' evidenziare l'imprevedibilità e i rischi che sono connessi all'imprevedibilità. Proprio l'altro giorno ci chiamava un cliente, ci ha detto: vi ringrazio di avermi fatto stipulare la polizza, aveva avuto un incidente che gli ha comportato, ecco, se non avesse stimolato, non mi avesse stimolato la sottoscrizione la polizza, probabilmente avrei oggi una situazione ci dimentichiamo felice. Che siamo italiani dei grandi scaramantici, per cui il gatto nero e tutte le situazioni appunto peggiori noi tendiamo ovviamente ad allontanarle. Terza cosa aveva detto invece sulla assicurazione dell'autista piuttosto che dell'auto, esperienza in Canada? Beh, questa non l'ho ben capita. È uno scenario che rimandiamo al futuro, alle prossime generazioni. Sì, molto bene Paolo, ci chiami in un'altra puntata. Chi c'è stava? Ah, ecco, c'è un ascoltatore che ci scrive su Twitter: un traduttore freelance che fattura solo collaborazioni occasionali, quindi un lavoratore totalmente autonomo, ha qualche speranza di assicurare il mutuo? Valeria Picconi. Una persona che fa il freelance, un traduttore freelance, fattura solo collaborazioni occasionali, probabilmente ha il mutuo, lo può assicurare? Ma diciamo che non, in questo caso non si parlerà magari di perdita di impiego, ma si parlerà di inabilità o di infortuni. Non credo che ci siano, quindi magari ecco l'ascoltatore ci scriva, vediamo un po' di aiutarla se ci fosse qualche cosa sul mercato che può coprire anche la sua esigenza. Alessandro Scarfò, una domanda per lei da parte di un ascoltatore di Ferrara che ci scrive: nel 2004, stiamo parlando di qualche anno fa, contestualmente all'accensione del mutuo di acquisto per la prima casa, ho sottoscritto una vostra polizza, la polizza vita, non so se lei se la ricorda, forse mi sembra che sia arrivato più tardi all'Intesa San Paolo. Intesa proteggi mutuo, premio unico, polizza frutto di una collaborazione fra Intesa San Paolo e HDI, che è un gruppo straniero, adesso non mi ricordo di che nazionalità. Ho scoperto solo successivamente che non sarebbe stato possibile recuperare alcunché, il costo era stato di circa 12.000 euro qualora si fosse estinto anticipatamente il mutuo. Funziona così, Scarfò? Beh, diciamo che oggi non funziona più così perché anche a seguito di decreti legislativi che sono andati in questa direzione, la polizza assicurativa non deve più rappresentare, non rappresenta più un vincolo alla mobilità. È chiaro che tutto, diciamo, la situazione che viene rappresentata partiva da una logica per la quale una volta che si faceva il mutuo, come dire, normalmente quel mutuo veniva estinto con la banca stessa e quindi si andava fino a conclusione. Oggi la mobilità sui mutui e sui prestiti in generale, sui sottostanti finanziari, è molto molto elevata, ci sono clienti che cambiano banca praticamente ogni anno e in questo senso la polizza non deve più rappresentare un vincolo a questo tipo di mobilità. Se ci fosse certo questa rigidità, la portabilità sarebbe vanificata completamente. Esatto, ma le dico di più, nella realtà questo è molto figlio del fatto che questi prodotti, che sono i cosiddetti prodotti che si chiamano CPI, quindi la protezione del credito, normalmente sono prodotti, e questo vale ancora per tutta l'industria, sono prodotti che vengono pagati in anticipo per tutta quanta la durata del piano. Questo è il motivo per cui la Proteggi con me invece l'abbiamo pensata in una logica invece annuale, monoannuale, per cui il cliente ogni anno decide come dire, se sottoscriverla nuovamente con pagamento su base mensile. Quindi abbiamo dato proprio il massimo della flessibilità proprio per comunque evitare situazioni di condizionamento in qualche maniera che possono gravare sul cliente. Allora, tra l'altro la mail di Lorenzo da Ferrara era molto più lunga ed articolata, poi magari scarfogliela a giro così vediamo di rispondere in maniera esaustiva all'ascoltatore. Chi sentiamo adesso? Vorrei sentire Roberto da Firenze. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. No, nulla, mentre prima abbiamo toccato il tema dei mutui, quindi la possibilità di assicurare un mutuo da parte delle famiglie. Però ci sono anche una buona percentuale di famiglie che sono in affitto e al tempo stesso ci sono conseguentemente una serie di proprietari che appunto poi mettono in affitto il proprio appartamento. Certo, in un caso è la banca che non riceve più la restituzione e nel caso dell'affitto naturalmente c'è un proprietario di un'abitazione che non riceve appunto il pagamento mensile. Sì Roberto, quindi voleva sapere se esistono strumenti assicurativi. Esatto, perché mentre le banche logicamente si cotelano in tutte le maniere, le famiglie viceversa questo non hanno questa forza e spesso e volentieri aumentano in questo periodo sempre più casi di morosità da parte degli inquilini e logicamente le famiglie ci rimettono una bella una bella quota senza avere la possibilità di appunto avere le forme di protezione che ha una banca. Certo, Roberto, la ringrazio. Valeria Picconi, io mi rendo conto che per esempio per il mutuo c'è comunque una proprietà, un edificio, una garanzia di diverso tipo rispetto all'affitto che non ha una garanzia sottostante, però sarebbe anche giusto che l'industria pensasse a queste persone. No, ma esistono polizze a garanzia dell'affitto. Le polizze lifestyle protection, cioè garanzia del tenore di vita, coprono gli impegni finanziari regolari, per cui l'affitto può essere uno, ovviamente deve essere un affitto regolare con un contratto regolare. Ovvio. E perché no? Certo. Quindi Roberto, anche lì il tema è magari farsi chiacchierate con più soggetti, quindi non andare solamente magari dall'assicuratore che si conosce da tutta la vita, che magari non ha in quel momento quel prodotto in casa propria, e quindi informarsi un po' di più, magari proprio attraverso la propria banca. Tra l'altro, Scarfori, torno da lei, per esempio questa vostra ultima polizza potrebbe tutelare l'ascoltatore in questione? Allora, questa polizza tutela la famiglia che voglia garantirsi di continuare a pagare l'affitto, quindi se vogliamo non è una garanzia per il proprietario dell'abitazione, è una garanzia per l'affittuario di essere in grado di fare fronte al pagamento dell'affitto anche a fronte di eventi non previsti. Quindi se vogliamo in qualche modo dà una risposta al punto dell'ascoltatore, se l'ho capito correttamente, guardandolo dall'altra parte e quindi garantendo che l'inquilino continua a pagare, non garantendo che, come dire, sarà il proprietario che continuerà in qualche maniera ad essere coperto, però è comunque una risposta al rischio di morosità che spesso e volentieri dipende proprio dalla perdita del posto di lavoro. Allora, 800 24 00 24, ancora 6 minuti di tempo per chiacchierare con voi e con i nostri ospiti. Stefano dalla provincia di Rovigo, buona giornata anche a lei. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo fare un appunto sulle assicurazioni. Praticamente predicano bene ma razzolano male. Cosa le è successo? Io avevo fatto una polizza per il capofamiglia, per la casa, tutto quanto. Ho avuto due sinistri e mi hanno dato la disdetta senza preavviso. Quindi va tutto bene quando non succede niente, quando hai i danni ti buttano fuori. Ecco, e quindi No, ha fatto bene a segnalarcelo, perché è un'altra questione ricorrente, per la verità, che lamentano anche in molti ascoltatori. Rossini, che ne pensa di queste vicende? Beh, sono comunque vicende che ci sono, dipende, vanno analizzate caso per caso. Noi come Chiara Assicurazione abbiamo una politica rigorosa, tipicamente non a seguito di sinistro. Quanti danni deve combinare un vostro cliente per potervi obbligare a dire questo io non l'ho? Ma no, in caso estremo c'era un cliente che aveva fatto 5-6 sinistri, nel quale poi ci siamo confrontati, poi c'era un uso che rasentava l'improprio, esatto, della copertura assicurativa. Esatto, questa è un'altra grande pratica che conosciamo. E quindi Italia. Casi del genere purtroppo alimentano dei comportamenti che devono in qualche modo tutelare le imprese e salvaguardare poi gli interessi di tutti gli assicurati. C'è un comportamento che spesso può essere poco ortodosso rispetto a situazioni che possono essere isolate, vanno valutate di caso in caso, però in linea di principio non credo che le compagnie Infatti io per carità non ho nessuna voglia di difendere l'industria assicurativa, ma se siamo arrivati anche a parlare, a denunciare sempre il tema delle tariffe delle RC auto crescenti negli ultimi anni, anche perché in Italia questi fenomeni sono molto diffusi. Mia moglie ha preso a prestito, ci scrive Giovanni da Pistoia, ha preso un prestito e gli hanno fatto stipulare due assicurazioni costretta, ha chiesto la certificazione per la denuncia dei redditi e ancora oggi non c'è stato reso. A chi bisogna rivolgersi? Alle compagnie. Giovanni, ancora qualche settimana di tempo, se vuole ci scriva, magari li sollecitiamo noi, ma credo che per poter appunto portare in denuncia dei redditi siano obbligati a farlo assolutamente. A me la mia banca per il mutuo me l'ha già mandato da un bel po', ma non perché io sia particolarmente fortunata, di solito si sbrigano, quindi Giovanni si metta lì al numero verde a tempestarli di telefonate. Ho un mutuo protetto da assicurazione, in caso di rimborso parziale ho diritto a parte di rimborso, forse lui vuole magari rimborsare appunto un po' del mutuo, quindi che cosa significa? Che deve rivedere anche l'assicurazione, Valeria Picconi, come funziona? Dipende deve essere dal contratto, riponderizzata. Bisogna vedere caso per caso, certo. Dipende anche quando è stato stipulato in realtà il finanziamento, perché le normative sono cambiate nel frattempo. È vero. Allora, tra l'altro, ancora un paio di minuti di tempo, che possiamo sentire del vostro piano per il cancro, magari Picconi ne parliamo un'altra volta, il long term care, quindi proteggere anche la famiglia qualora si verificano casi appunto di questo tipo legati alla salute. Oggi soffermiamoci un po' di più sul cambio della condizione finanziaria. Matteo da Pavia, rapidissimo prima di concludere. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio è molto semplice. Volevo sapere informazioni circa le assicurazioni obbligatorie che da agosto tutti i medici dovrebbero avere, assicurazione personale. perché mia moglie lavora in una clinica, c'è già l'assicurazione legata alla clinica, ma adesso proprio personale. È chiaro che sì, però hanno dei premi altissimi. Allora Matteo, guardi, la interrompo subito perché l'RC professionale è un tema che magari affronteremo in un'altra puntata di Salvadanaio, riguarda i medici come riguarda i commercialisti e tante altre categorie professionali. Per la verità ogni categoria professionale sta stipulando delle convenzioni per le quali poi chiaramente io credo che ogni categoria sarà da proprio ordine professionale adeguatamente informata. Però guardi, la interrompo solamente per prometterle che ci ritorneremo su questo argomento che abbiamo già affrontato a Salvadanaio quando ancora era tutto un po' in fase di elaborazione e preparazione, ma adesso siccome si parte è il caso invece di ritornarci, perché vedo che appunto molte categorie professionali non sono informate. Chiara Assicurazione invece si è inventata un'altra cosa in casa, forse proprio anche osservando questa novità che stava arrivando. Voi vi siete inventati la polizza per la mala gestio, che mi piace tantissimo. Beh, abbiamo cominciato è la polizza RC professionale, dove il professionista è il manager d'impresa. È un esperimento che abbiamo iniziato 2 anni fa, sono coperture che erano poco diffuse in Italia, molto diffuse nei mercati evoluti. E che cosa tutelano? Tutelano un po' chi fa il lavoro di manager rispetto a imprecisioni, negligenze, sviste, imperfezioni. Ma è singolare che un manager venga da voi e dica: io mi voglio assicurare perché mi sa che avrò qualche svista nella gestione dell'azienda. Beh, no, il pregiudizio deve essere ovviamente accidentale, quindi si fa sempre riferimento a una negligenza che non è premeditata, e si assicura l'azienda che compra la copertura per tutti i propri manager. Questa è una novità che abbiamo introdotto e è piaciuta tanto alle aziende, è piaciuta tanto ai manager ed è piaciuta tanto alle banche, perché indirettamente salvaguardia un po' quello che è il patrimonio dell'azienda stessa. So che ne avete stessa. Anche stipulate parecchie, soprattutto per piccole e medie imprese. Piccole e medie quindi, imprese. Insomma, sensibilità intorno a questo tema c'è. L'importante è che andiate sempre di più sulla strada della totale trasparenza con i clienti, e noi vi inviteremo sempre più spesso. Grazie a Valeria Picconi, Igor Rossini e Alessandro Scarfò per essere stati con noi, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, oggi Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Grazie a tutti, noi ci sentiamo, ahimè, per voi anche stasera a Focus Economia. Buona giornata. Salvadanaio.